Benvenuti e benvenute su La Casa del Ciliegio, il podcast dedicato alla mindfulness, alla consapevolezza e alla cura di sé. Io sono Donatella D'Agostino, insegnante certificata dei protocolli MBSR e MBCT e ogni settimana ti accompagnerò in un viaggio di crescita, calma e riflessione. In questo spazio troverai meditazioni, consigli pratici e strumenti per vivere una vita più consapevole, lontano dallo stress e dalla frenesia quotidiana. Se sei alle prime armi con la mindfulness o stai cercando modi per integrare la consapevolezza nella tua vita, sei nel posto giusto.